vuole adonta mia che Cesare s'ascolti? L'ascolterò, ma in faccia agli uomini ed ai numi io mi protesto che da tutti costretto mi riduco a soffrirlo e con mio affanno debole io son per non parer tiranno. Cesare, a me son troppo preziosi momenti e qui non voglio perderli in ascoltarti. O stringi in tutto in poche note, o parli. T'ho pagherò, come m'accogli, il primo dei miei desiri a renderti sicuro che il tuo cor generoso, che la costanza tua... Mangia, favella, se pur vuoi che t'ascolti. Io so che questa artificiosa lode è in te fallace, e vera ancora, dai labbri tuoi mi spiace. Sempre lì stesso, ad ogni costo io voglio pace con te. Tu scegli i patti, io sono ad accettarli a cinta, come faria col vincitore invinto. Un che dirà, tanto ferisci, e tanto adempirò, che dubitar non posso d'un'ingiusta richiesta. Giustissima sarà, lascia dell'armi l'usurpato comando, il grado acceso di dittator che poni, e come reo rendi in carcere angusto alla patria ragione tuoi misfatti. Questi, se pace vuoi, saranno i patti. Io dovrei di rimanere oppresso, non dubitar, allora sarò tuo difensore. E soffro ancora, tu sol non basti. Io so quanti nemici con gli eventi felici mi irritò la mia sorte. Onde potrei i giorni miei sacrificare in vano? Ami tanto la vita e sei romano. Basta così! Ferma, Catone! È vano quanto puoi dirmi! Un sol momento aspetta, altre offerte io farò! Parla ed affetta! Quanto sopporto! Il combattuto acquisto dell'impero del mondo, il tardo frutto dei miei sudori e dei perigli miei! Se meco in pace sei, dividerò con te! Perché poi, diviso ancor fra noi, di tante colpe tue fosse il rossore, e di viltà Catone, temerario così tentando vai, posso ascoltar di più. Son stanco ormai, troppo cieco ti rende l'odio per me. Meglio rifletti, io molto finor t'offersi e voglio offrirti più. Perché fra noi sicura rimanga l'amistà, caro disposo la destra Marzia. Alla mia figlia. A lei. Ah, prima che gli dei, io mi sopra il mio capo tutto lo sveglio. Il sangue d'un indegno, infami il sangue mio, ch'a me congiunto io soffro traditore. Un che di Roma, quasi già nel suo furor sepolta, l'antica libertà. Taci una volta, ho cimentato assai la tolleranza mia. Cesare dove? Al campo. Dio t'arresta. Questa è la pace e questa è l'amistà sospirata. Il padre accusa e gli vuol guerra. Ah, genitore! Tacchetta, di costui non parlar. Cesare! Ho troppo tolerato finora. No, placate ormai di le ostinate. Ma se di pianto costano i vostri sdegni alle spose latine, assai di sangue costano gli odi vostri all'infelice popolo di Quirino. Ma sull'amico trafitto più incrudele il nemico, ah, non trionfi del Germano, il Germano, ah, più lontana al figlio che l'uccise, il padre accanto, passi al fin tanto sangue, tanto più. pianto. Non basta lui. Non basta me. Se vuoi, per tempo ancora, pongo in oblio la fede, le promesse rinnovo, li depongo e la coscienza attendo. Chiedimi guerra o pace, soddisfatto sarai. Guerra, guerra mi piace. Di guerra avrai.